A partir deste momento, Dancitalo. Dancitalo. ¿Se puede? Avanti, avanti. Buenas tardes, Don. Io sonno. Sí, sí, sí, sí. Tú sonas igual que si te hubieras tragado un cactus. Pero escucha. Mira, capo. Yo sí que tengo la auténtica cosa nostra. E autentici spaghetti. Ya lo verás. Escucha, escucha. What? So guile, you're so guile, we're all

Yeah. interesante. sábado, DJ Larry y DJ Son. Parecida. Bellissimo! Questo sì che è una cosa nostra! Non può salire dalla mia famiglia! Un momento, capo, che haces? No! Do it. on and take me for a ride. Oh baby, please don't hesitate. Oh baby, please don't let me wait. Nobody does it like you. You really know what to do. Come on and do it to me. Come on and give it to me. So come on and do it. Thank you.